9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, tenterò oggi di non farmi troppi nuovi nemici, ma non sono sicuro di ottenere questo obiettivo, perché il punto di vista da cui parto per l'argomento di cui ci occupiamo oggi, l'argomento è i precari della scuola, trattino, è un punto di vista abbastanza significativamente, forse anche radicalmente diverso da quello che abitualmente occupa l'informazione nelle prime settimane di apertura dei calendari scolastici, esattamente questa fase dell'anno. Tra l'altro noi il 13 settembre, lunedì, dedicheremo un po' tutta la programmazione della nostra giornata qua a Radio 24 esattamente a questo punto. Ci sarà anche il ministro Gelmini. E uno dei temi classici, dominanti, lo avete sentito anche nel giornale radio, nel servizio che abbiamo appena lanciato della nostra collega Di Michele, diventa l'occupazione delle piazze e delle strade da parte dei rappresentanti dei precari della scuola. Perché si dice i tagli alla scuola pubblica buttano fuori precari e quindi sono macelleria sociale. Questo è il tema che ricorre sempre. Ora, la questione, sentiremo le parole del ministro tra poco, sentiremo punti di vista, opinioni un po' eterodosse rispetto a quella dominante. Quella dominante è i selvaggi tagli alla scuola pubblica, che abbassano, dequalificano il sistema della formazione italiana, ottengono anche l'effetto di sbattere per strada la gente. I fatti sono che noi siamo in fondo a tutte le graduatorie internazionali della valutazione comparata del nostro sistema formativo, i famosi test PISA eccetera eccetera, lo sappiamo da una parte. Dall'altra, la mia opinione è che quando si spende oltre il 98% del bilancio della pubblica istruzione solo per i dipendenti e quello che resta si commenta da solo per la qualità dell'offerta formativa, non mi stupisce che questo sia il risultato che si consegue. La terza cosa è che se nel mercato privato del lavoro qualcuno sbaglia la qualifica per cui si forma e non c'è domanda per quella qualifica, non credo che nessuno si mobiliti per dire comunque ti assumo. Il punto è che a quel punto ti riorienti e capisci che hai sbagliato. Sono un po' brutale in questa considerazione. Invece nel settore pubblico, di fronte a un eccesso di personale, e questo mi rendo conto che mi espone a tutte le reazioni, faccio notare che fin dal quaderno bianco della scuola realizzato ai tempi del governo Prodi, settembre 2007, che mise sotto il microscopio per l'ennesima volta il problema dell'eccesso personale della scuola italiana. Faccio notare che nella scuola italiana abbiamo circa 10,7 è il rapporto tra alunni per insegnante. In Europa, in tutti i paesi europei è superiore, si va dai 12 ai 15, quindi noi abbiamo una percentuale record di insegnanti rispetto a studenti, studenti che sono in contrazione per via dei flussi demografici dei prossimi anni, ma siamo l'unico paese che ha adottato il sistema della numerosità delle cattedre per assumere i precari, invece che piante organiche fatte in proiezione a quanti sono davvero gli studenti e in maniera tale da poter destinare le non troppe risorse, perché siamo in basso rispetto alle graduatorie internazionali, ma perché siamo un paese che ha la finanza pubblica che ha. Non è che possiamo ogni volta dire spendiamo come la Germania. Sì, certo, facciamo la produttività della Germania e il rigore pubblico della Germania, potremmo permetterci anche di spendere come la Germania. Finché non facciamo così possiamo spendere non troppo, un po' meno, e allora in quel meno, se noi spendiamo il 98% solo per continuare ad assumere precari, è ovvio che la qualità dell'offerta formativa sarà bassa, è ovvio che un sistema collassa se con la piena connivenza dei sindacati la politica, pensando solo ai voti dei precari da regolarizzare, continua a immaginare la scuola come un posto che è per chi ci lavora invece che per chi lo frequenta e per la qualità dell'offerta formativa di chi ci frequenta. E siamo diventati l'unico paese al mondo la cui piante organiche della pubblica istruzione sono finalizzate all'assorbimento di un sempre maggior numero, da 30 anni a questa parte è così, da 30 anni a questa parte, un sempre maggior numero di dipendenti, piuttosto che essere parametrati invece a chi dell'offerta formativa è l'interlocutore, cioè i giovani e le famiglie. Allora, io penso che sia giusto, dal punto di vista del contribuente, del cittadino, del padre, porsi questa visione di medio-lungo periodo per tentare di mettere a posto la questione dei precari. Non credo che mi si possa accusare di indifferenza sociale, di macelleria sociale, se penso che per rimettere a posto più di 28 provvedimenti di sanatoria, di assunzione di precari e di missione a tempo determinato loro nella scuola italiana negli ultimi 32 anni, cioè per 28 volte noi abbiamo messo in cattedra gente il cui titolo di anzianità era l'abilitazione, capite? Era questo il vero motivo per cui poi alla fine la politica strizza l'occhio. Ti do un incarico, una supplenza annuale, eccetera, eccetera, dopodiché dopo tot ti arriverà la cattedra. Io penso che questa maniera di vedere le cose, che sarà accusata di produttivismo, è una maniera di medio-lungo periodo. Dopodiché mi si può dire, ma nel frattempo assumiamo tutti quelli che ci sono. Questa è da sempre stata la posizione del ricatto per cui si formano sempre altre liste successive. Come mai nel pubblico si ha diritto a bloccare le piazze o a stare sotto Montecitorio, come puntualmente i giornali informano anche stamattina? L'ultima dichiarazione era: bloccheremo lo stretto di Messina. Ma nel privato? Perché in che cosa i lavoratori del privato che non trovano soddisfazione rispetto alla propria offerta dovrebbero essere considerati di serie B? Oppure che cosa vogliamo fare? Vogliamo pensare a un sistema in cui anche quelli del privato gli diamo un posto di lavoro a tutti, perché giustamente ci sarà un caso umano anche nelle loro famiglie, no? Anche i loro figli saranno da sfamare, perché no? Osservazioni provocatorie. Pensiamo un secondo, ripensiamo a che cosa ha detto il ministro, mandiamo in onda le sue parole e poi passiamo direttamente ai nostri ospiti. 700.000 insegnanti è già un numero significativo e vi assicuro che è assolutamente sufficiente per far fronte al bisogno di insegnanti che il nostro paese esprime. E noi non abbiamo la possibilità economica di sommare a 700.000 persone altre 200.000, perché 200.000 sono i precari. Piuttosto io qui credo che la politica del passato debba fare una forte autocritica, perché i 200.000 precari sono il frutto di politiche disinvolte che, per fare consenso a buon mercato, hanno distribuito posti di cui la scuola non aveva bisogno e che soprattutto non era in grado di finanziare, di mantenere economicamente. Ecco, queste le parole che hanno fatto insorgere per l'ennesima volta, comprensibilmente, legittimamente, i coordinamenti dei precari. Allora, gli ospiti di oggi, ai quali chiediamo dei commenti un po' eterodossi rispetto al problema assumerli tutti sì o no. Abbiamo un punto di vista eterodosso ed è sicuramente quello di Attilio Oliva, che è presidente dell'associazione 3L e presidente della commissione educativa industriali presso l'Ocse. Buongiorno Oliva. Buongiorno. Poi abbiamo con noi, come è giusto, Massimo Di Menna, il segretario generale della UIL Scuola. Buongiorno Di Menna. Buongiorno. Abbiamo con noi Vincenzo Brancatisano, che è un docente annuale da la bellezza di 22 anni, quindi sa di che cosa parla a proposito di precariato, insegna discipline giuridiche ed economiche negli istituti superiori, autore del libro Una vita da supplente. Buongiorno e grazie Brancatisano. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. E abbiamo Michele Boldrin, da cui partiamo, che insegna alla Washington University di St. Louis e qualche giorno fa, con un articolo sul Fatto Quotidiano, ha proposto un'altra strada. Il titolo dell'articolo di Michele Boldrin era proprio "Forse c'è un'altra strada". Buongiorno Michele, qual è quest'altra strada? Buongiorno. L'altra strada che ho proposto io potrà sembrare una cosa marziana agli italiani, comunque la riassumo in breve. Poi c'è un attimo, vorrei fare due commenti sulla tua introduzione, che condivido solo molto in parte. La strada comunque che ho proposto io è la seguente: il problema è un problema di meritocrazia e di responsabilità. In questo momento il Ministero della Pubblica Istruzione gestisce qualcosa come quasi 1 milione di dipendenti, una delle più grandi aziende del mondo, questo va eliminato. Per introdurre meritocrazia io ho suggerito il seguente meccanismo: trasformiamo le scuole elementari, medie e medie superiori del paese in cooperative di insegnanti. È semplicissimo, si fa la cooperativa, si dà in accomodato, in usufrutto di edifici fisiche alla cooperativa si elegge il proprio dirigente, se quello attuale sia approvato dai professori, altrimenti se ne sceglie uno al proprio interno. E la cooperativa vende il servizio che sta producendo in questo momento di istruzione sul mercato, competendo uno con gli altri. Chi paga? Facciamo i buoni scuola. Ciò che conta non è tanto avere il servizio diretto pubblico di istruzione, ciò che conta è avere il finanziamento pubblico dell'istruzione. Quindi prendiamo quello che si spende oggi per studente, lo trasformiamo in un assegno che va alle famiglie che hanno ragazzi, bambini, giovani in età scolare, e questi se lo spendono dove vogliono. A questo punto la cooperativa al proprio interno è perfettamente libera, con le regole della cooperazione, con le regole che si darà, di premiare i più capaci, di mettere in difficoltà, anche licenziare o far uscire dalla cooperativa per lo stipendio quelli che non lavorano, eccetera eccetera. E eliminiamo tante cose, ma una delle cose che eliminiamo è questa discriminazione, che io trovo sì ingiusta oltre che inefficiente, e che è implicita nei provvedimenti attuali, in cui gli anziani, quelli dentro, i protetti, quelli di ruolo, non li tocchiamo. Che siano buoni, cattivi, bravi, capaci, incapaci, sono comunque protetti, mentre quelli più giovani, quelli appunto nella condizione di precariato, vengono esposti al rischio. Se il mercato deve essere, se deve essere meritocrazia, io ne sono a favore, deve essere per tutti. Questa è la proposta mia, in tre parole, insomma. No, in tre parole è un meccanismo, da una parte, per così dire, di merito, dall'altra solidale, dall'altra di mercato, che mette al centro la scelta delle famiglie e la qualità dell'offerta competitiva delle cooperative di insegnanti, per così dire, a cui viene dato in dotazione la parte di patrimonio pubblico, che del resto è quella che consente loro negli istituti. Invece, rispetto all'introduzione, Michele? È che il Ministero della Pubblica Istruzione elimini i professorati, eccetera, però continui a funzionare come produttore e gestore di esami annuali agli studenti, uniformi sul territorio nazionale, che siano una misura obiettiva di qualità del riconoscimento che poi gli studenti effettivamente raggiungono. Non possiamo lasciare questo all'impressione così soggettiva del singolo genitore, so, quel maestro mi è simpatico, e alla fine bisogna anche avere dei criteri obiettivi che ci dicano sì, il ragazzo ha preso la matematica, la ragazza non l'ha presa, eccetera. Ma in questo passaggio epocale di sistema, per così dire, in cui c'è mercato, merito e si tenta di fare qualità degli standard attraverso una diversa impostazione, il pubblico non è per forza gestito da dipendenti pubblici, però rispetto all'attuale situazione dei precari, dei 200.000 precari, in realtà se fosse ministro Michele Boldrin come si comporterebbe? Michele Boldrin, credo che sia caduta la linea, quindi questo no, momento... ti sento a tratti, ma ti sento. Io purtroppo sono in macchina. Chiedevo semplicemente, ma se fossi ministro nelle more dell'attuazione di questo passaggio epocale, di fronte ai precari oggi, quale sarebbe la tua risposta rispetto alla quella della Gelmini? Ma guarda, ecco, questo invece, la mia risposta di fronte ai precari sarebbe davvero sediamoci e troviamo criteri di merito, di mobilità territoriale, per massimizzare l'efficienza. Francamente io non condivido l'atteggiamento di questo governo rispetto alla questione scuola. È vero che spendiamo un po' troppo rispetto al numero di studenti, ma è vero che il problema fondamentale non è tanto di tagliare la spesa pubblica in questo momento sulla scuola in Italia, ma di riqualificarla per davvero cercando di spendere. A me sembra che non mettere in gioco, non avere il coraggio politico di mettere in discussione anche la condizione protetta dei professori di ruolo sia il punto debole dell'atteggiamento della Gelmini. Questo io non lo condivido. Ora, come farlo concretamente la transizione, se vuoi ne discutiamo. Io comincerei a offrire per esempio a tutti i centri scolastici che vogliono farlo, in cui diciamo un 70% dei docenti coinvolti sia a favore, l'opzione che io dicevo, l'opzione della cooperativa, e metterei sul terreno proposte chiare di mobilità territoriale per i precari, che siano disposti ad andare, se ci tengono, al loro posto di lavoro, da luoghi dove non c'è domanda a luoghi dove la domanda c'è. In questa osservazione di Michele Boldrin c'è un punto di partenza, sul quale sono totalmente d'accordo anch'io. In un paese come il nostro, in cui si tratta di riorientare verso la qualità, il merito, la macchina pubblica, il totale degli incentivi della macchina pubblica e anche un bel po' di economia privata, è ovvio che adottare la strategia dei tagli lineari per contenere la dinamica aggiuntiva del deficit pubblico è una strategia che non consente esattamente di fare queste scelte. Qui in realtà il responsabile non è il ministro Gelmini, è l'impostazione che viene dall'economia, del tesoro, da Giulio Tremonti. Questo è il punto, l'abbiamo parlato tante volte, perché un paese che si deve riorientare deve proprio avere il coraggio di fare delle scelte e dire, anche la Germania adesso ha fatto scelte di rigore, ma ha detto: io la scuola, l'università e la ricerca non sono la taglio, ma aumento le dotazioni. Questo è un punto di fondo. Poi io contesto il fatto che l'aumento delle dotazioni sia solo per fare la proliferazione delle cattedre, perché l'aumento delle risorse finanziarie deve essere fatto per qualità formativa, per strumenti al servizio delle scuole, per consentire meccanismi retributivi differenziati. Io sono per l'autonomia più ampia. Questa di Michele Boldrin è una parte, è una proposta solidale, cooperativa, ma per fare competizione dal basso in nome della qualità nel sistema. Mi piace esattamente per questo. Chiedo immediatamente a Massimo Di Menno, segretario generale della UIL Scuola, un'impostazione mercatista e meritocratica, ma contemporaneamente solidamente incardinata sul concetto della qualità della scuola pubblica e della formazione pubblica di questo tipo. Che tipo di reazione gli susciterebbe rispetto all'impostazione attuale del governo, Di Menno? Ma guardi, le ultime cose che lei ha detto mi trovano consenziente, d'accordo, cioè che più risorse, maggiori investimenti devono essere assolutamente finalizzati a sostenere la qualità dell'offerta formativa. La scuola italiana è una scuola statale per il 94% degli studenti italiani, quindi la qualità va indirizzata lì. Questa proposta più, diciamo, che veniva fatta invece prima mi sembra assolutamente, diciamo, molto difficoltosa. Tra l'altro aumenterebbe la precarizzazione anziché la stabilità. Però due dati soltanto voglio darle, proprio a sostegno di questa esigenza. Noi in Italia spendiamo per l'istruzione non solo di meno rispetto agli altri paesi in rapporto al PIL, e in questo caso ha perfettamente ragione lei quando dice abbiamo un problema di debito pubblico che non ci consente, ma la questione è che noi spendiamo di meno anche in rapporto alla spesa pubblica. La media europea di spesa per l'istruzione in rapporto alla spesa pubblica è dell'11%, noi spendiamo il 9,7%, quindi la politica di contenimento della spesa, dei tagli lineari, non consente questo riequilibrio a favore del sistema dell'istruzione, che certamente penalizzerebbe altri aspetti della spesa pubblica. Per quanto riguarda i precari, invece, abbiamo un termine che in realtà rappresenta un mondo che è molto diversificato. Abbiamo circa 100.000 persone, che si tratta sostanzialmente di disoccupazione intellettuale, cioè di persone laureate che hanno fatto anche delle prove e che sono inserite in queste graduatorie permanenti, graduatorie che non finiscono mai. E poi però abbiamo circa 50.000 persone che sono insegnanti che ogni anno hanno un incarico, un contratto, che ogni anno si rinnova per 10, 15, 12 anni. Quindi un processo di pluriennalità per dare stabilità a questo nucleo di insegnanti, perché se sono in quelle posizioni hanno superato dei concorsi, hanno acquisito delle abilitazioni, hanno anche delle esperienze lavorative, potrebbe essere la strada, diciamo, da seguire. Posso farle una domanda? No, non può essere l'offerta di lavoro per tutti quanti. Non può essere, però alla fine l'impostazione è questa. Nelle parole di Michele, del professor Boldrin, c'era una specie di sfida, al di là del sistema generale e di introdurre elementi di concorrenza attribuendo dotazioni e con una certificazione di qualità, però nella concorrenza poi del sistema, con le famiglie che scelgono con i voucher, che immagino non piaccia perché significa precarizzare, cioè quello che non piace mai è dimenticarsi che il posto pubblico deve significare stabilità a tempo indeterminato per la vita, tutto il resto dell'economia no, il posto pubblico deve per forza essere questo senza mettersi in competizione. Capisco che questo per una logica sindacale rappresenta una cosa di fronte a quale sorridere dicendo non sarete voi poveri untorelli a costringerci a questo, ma nella impostazione di Michele Boldrin, che mi piace, c'è un'altra sfida, cioè dire se volete battervi perché i precari abbiano le loro chance, ma non tanto al posto a tempo indeterminato perché precari, perché hanno avuto gli incarichi per anni, quanto in nome del fatto che rappresentano un patrimonio di qualità, perché non accettare l'idea che a quel punto bisogna fare, tra virgolette, la gara anche rispetto a chi ha già il posto a tempo indeterminato, cioè a chi sta già in ruolo, e avere un meccanismo permanente per il quale poi le cattedre e gli insegnamenti si attribuiscono sulla base dei titoli veri di qualità, chi sta dentro e chi sta fuori? Lo so, di Menna, che anche questo lede un principio intangibile del nostro ordinamento, per cui chi sta dentro, però la questione è che perché solo nei confronti dei precari del regolarizzare vale il criterio noi siamo quelli che si sono impegnati di più negli ultimi anni rispetto a chi sta dentro, e quindi la qualità da mettere dentro è sempre quella di chi sta fuori, senza più mettere in discussione la qualità poi di chi, una volta varcato la messa in ruolo, a quel punto se ne può anche fregare. Non sarà così. Io non voglio mancare di rispetto a centinaia di migliaia di insegnanti italiani e la passione che ci mettono rispetto ai pochi soldi che prendono. Però, in apparenza, la critica di Boldrin mi sembra fondata. Lei che dice? Ecco, io oltre ovviamente la tutela delle persone che lavorano, e quindi fare tutte le verifiche, le prove ultra selettive per l'accesso, il sistema scolastico, quindi per la delicatissima funzione che hanno gli insegnanti, richiede il maggiore di continuità e di stabilità possibile. Un sistema scolastico che venisse imperniato, quindi in un rapporto con le famiglie, che in base a quello che le famiglie decidono possa determinare il fatto che un insegnante di latino, di greco, di matematica, un insegnante di scuola primaria possa rischiare di perdere addirittura il lavoro, questo determinerebbe un sistema che dal punto di vista della qualità rischierebbe moltissimo, perché la scuola ha bisogno anche di essere rigorosa, gli insegnanti hanno bisogno di poter acquisire anche dei comportamenti, delle azioni che non sono semplicemente la risposta positiva alla domanda delle famiglie, che può essere qualche volta di qualità di istruzione, ma molte volte, come spesso avviene nelle scuole italiane, solamente di sollecitazione, di avere un buon voto, di avere una promozione. Quindi in questo senso c'è un rischio, questo modello porterebbe un rischio aggiuntivo. Altro conto è introdurre un sistema di valutazione delle scuole, quindi anche del lavoro degli insegnanti, sia per sostenere questa modernizzazione di cui la scuola italiana ha assolutamente necessità, anche per valutare, anche per legare progressi di carriera, opportunità, ruoli all'interno della scuola in base ad esiti certificati dall'esterno, perché la scuola deve dare, essendo scuola statale, garanzia alle famiglie italiane che l'offerta formativa diventa importante, ma una generalizzata precarizzazione dove chi decide sostanzialmente è la cosiddetta domanda, cioè le famiglie nel sistema scolastico, francamente lo vedrei, oltre che il problema di stabilità del lavoro delle persone. Di Menna, ma sono due visioni del mondo, cioè per chi il sistema pubblico deve assolvere le domande del cittadino, del contribuente, io sono così, e c'è chi pensa che il sistema pubblico, in quanto sistema pubblico, sia titolarità di un'etica, di una garanzia, di una demanda. A me non pare in Italia, io non credo che se la bassa offerta formativa testimoniata dal PISA è perché le famiglie vogliono solo i figli promossi. Io non credo che sia così. Io penso che a furia di dare bassa qualità formativa, le famiglie vengono indotte a dire: e tanto vale allora che ce le promuovete tutti. Ecco, questo è quello che vedo io nei paesi in cui ho fatto esperienze di formazione universitaria o post universitaria. I livelli sono diversi. È vero, esiste una domanda privata o pubblica nel sistema pubblico di qualità garantita, di diversi rigori nella selezione e nella valutazione che poi si fa dei titoli di studio, ma chi manda i figli lì sa di mandare a livelli diversi, e anche nei più elevati, in alcuni paesi persino i tanto criticati Stati Uniti, nei più elevati c'è una quota di accesso per puro merito e a prescindere dal reddito delle famiglie, incomparabilmente più elevata e più giusta dei nostri finti criteri di accesso, che finiscono per premiare i figli dei ricchi che valgono le tasse, perché questa è la realtà che conosco io nel mio paese. Ora pubblicità. La versione di Oscar. Precari sì, precari no, 1 milione di dipendenti, il 98% del bilancio solo per pagare i dipendenti, poca però qualità certificata in ogni esame internazionale, eppure un elevatissimo rapporto tra insegnanti e studenti, non solo perché ci sono gli insegnanti di religione, come alcuni sapidi ascoltatori immediatamente hanno osservato mandando gli sms credendo di mettermi il sale sulla coda, no, ma perché da più di 30 anni noi abbiamo avuto una trentina di provvedimenti di messa in ruolo per legis, di una politica che prima promette moltiplica, poi naturalmente lesina la messa in ruolo perché così magari ci si avvicina alle elezioni, e poi naturalmente con la regolarizzazione di volta in volta fa come con le quantità scalari di droga per chi è dipendente, e quindi il sistema ipertroficamente continua ad attirare un numero di persone che orienta la propria formazione, che ha continuato a vedere nella scuola l'esito professionale della propria vita, anche se era evidente che noi siamo in un paese con una proiezione demografica che non giustificava questo, e a quel punto diventa un diritto quesito, diventa il diritto a manifestare, e ogni riduzione della priorità di finanziamento della scuola che non sia fatta per regolarizzare chi incattra diventa taglio alla qualità, taglio alla scuola pubblica, perché si vuole fare un favore alla scuola privata, perché non si ha un'idea della qualità formativa, e i presidi e le cose e le accuse di macelleria sociale. Ecco, il problema è che tutto questo deriva da una pessima politica, non è colpa dei precari. Resta il fatto però che poi c'è anche una differenziazione abbastanza incivile rispetto a chi si forma nel privato e nessuno poi ti assume se hai sbagliato e quindi ti deve riorientare, invece nel pubblico abbiamo sentito se non gli diamo stabilità, poi la scuola non funziona, se non gli diamo stabilità come facciamo a comportarci? Il nostro è un punto di vista eterodosso, avete sentito Michele Boldrin che ha proposto una via solidale e cooperativa ma mercatista di cooperazione dal basso in concorrenza per dare qualità dell'offerta formativa facendo scegliere le famiglie e rimettendo in discussione i titoli di merito dei precari insieme a quelli che stanno già in ruolo. Quindi un mix che a me piace molto, a dire la verità. Provocatoriamente abbiamo sentito cosa ne pensa il sindacato, adesso alcuni ascoltatori, poi due altri ospiti. Cominciamo negli ascoltatori con Elio da Padova. Prego Elio, ci dica. Sì, buongiorno. Allora, come al solito ce la si prende con l'anello debole della catena che sono i precari. La verità è che questo governo non ha nessun progetto sulla scuola, cioè nulla si dice su come migliorare la qualità, sull'edilizia scolastica ad esempio. Io le faccio un esempio, ho vissuto fino all'anno scorso ad Asti il liceo classico è inagibile da quest'anno, il conservatorio che dirigo io a Adria ha dei grossissimi problemi di edilizia scolastica, sta cadendo a pezzi, non riusciamo a trovare fondi per rimetterlo a posto. La verità appunto, come dicevo, è che non c'è un progetto e nulla si dice, ad esempio anche da voi, nulla si è detto stamattina, dei tagli che vengono fatti al resto del personale. Non so se lei sa che nel triennio 2009-2012 viene tagliato il 17% del personale ATA, significa solo di collaboratori scolastici, solo quest'anno 17.000 posti di lavoro in Italia. E allora? La scuola media... Fermo. E allora? E allora ci vuole un progetto. Ci vogliono le assunzioni. Grazie Elio da Padova, ci vogliono le assunzioni. E questo è esattamente il punto di vista rispetto al quale io sono critico. Il progetto sono le assunzioni? No, il progetto non sono le assunzioni. La mia opinione è questa, banalissima, finché mi cacciano me la tengo. Naturalmente sono totalmente consapevole di essere solo contro i 200.000, chi riduce il problema della pubblica istruzione ogni volta al colore politico del governo pro tempore, chi rimpiange i 50.000 assunti del ministro Fioroni. Infatti il ministro Fioroni, che io rispetto, ha trovato una lunga scia di nostalgici estimatori, basta assumere 50.000 all'anno. Non è molto difficile per un ministro conquistarsi così la sua popolarità. Questo significa avere un progetto? Io credo di no, mi becco la minoranza. Paola da Firenze, prego Paola. Buongiorno, io volevo segnalare in parte quello che ha già detto tanti altri ascoltatori, cioè che nel numero che lei fa del rapporto fra insegnanti e numero di studenti rispetto al resto dell'Europa, non viene mai considerato che gli insegnanti di sostegno negli altri paesi sono pagati dal servizio sanitario, quindi il 98% della spesa che lei imputa tutto agli insegnanti andrebbe distribuito anche su altri ministeri. Gli insegnanti di religione, è già stato detto, che sono anche loro più di 15.000, che incidono anche loro in quello che è l'insegnante e il pagamento e il numero degli insegnanti. Quindi, su un milione, signora, su un milione? Quando fate le proporzioni segnalatelo. Su un milione, signora, un milione! Comunque, grazie anche a Paola da Firenze. Daniele da Verona. Sì, buongiorno. Io sono in ruolo da 25 anni e insegno diritto e economia in un istituto tecnico commerciale. Volevo solo fare un intervento di questo segno. Forse il preside, se ho ben capito, di prima di Adria, mi pare, quando parlava di progetto non parlava solo di assunzioni, parlava di una scelta di fondo. Cerco di spiegarmi meglio. Lei prima diceva, dottor Giannino, che in Germania hanno deciso di investire destinando risorse all'istruzione. Sì. Ecco, io, guardi, le dico, ho una classe di 38 iscritti. Allora, io credo che presentare i precari come una massa di persone che semplicemente chiedono un'assunzione sia forse anche offensivo. Nei precari, come in tutte le categorie, c'è di tutto, in tutte le categorie. Superare un concorso gioca molto anche la fortuna, credo che tutti quelli che l'hanno fatti, io ho quasi 50 anni, lo possono dire. Ecco, credo che non abbiamo mai sentito, io intanto nel mondo della scuola non vedo mai dei superiori, parlo di ministeri, di governi che si sono succeduti, persone esperte di scuola, mai, vedo gente che viene sempre da altri settori. Il ministro Gelmini è un avvocato che tra l'altro per sua stessa missione ha superato l'esame d'avvocato in maniera non certo meritocratica, questo lo dico perché anch'io ho fatto l'esame d'avvocato e quindi anche lì avrò avuto la mia dose di fortuna, però nella scuola quello che manca, io dico, tutta questa massa non potrebbe essere utilizzata per un famoso progetto di cominciare a scaglionare e a dire non facciamo classi di più di X, 25, 22, non lo so, e cominciamo a inserire gradualmente. Perdoni Daniele, io non metto in discussione, lei ci porta la sua esperienza, c'è una classe del 38. Il rapporto che è il più basso nei paesi europei dell'OCSE dell'Italia tra insegnanti e studenti, cioè il numero di studenti per insegnante è il più basso. Questo rapportino che ho citato all'inizio è falso secondo lei? No, io guardi, non mi permetto di dire se va. Ci saranno sicuramente, non ho dubbi nel dire che ci sarà una cattiva distribuzione di insegnanti, come parlando dell'altro mondo che conosco un po', che è quello appunto dei tribunali, quando si dice che in Piemonte ci sono un sacco di tribunali, non so, cioè è sempre un problema di buona fede, al di là del colore politico, di chi ha i pezzi da sistemare sul tavolo e di dire, io per esempio, guardi, le dico francamente, un governo di qualunque colore che dicesse vogliamo fare, come si dice oggi questa parola molto usata, un tavolo e cominciare a dire partiamo da delle cose di fondo, quanti alunni vogliamo mettere? Evidentemente ci saranno delle classi da 38 e delle classi da 5, per dire, dico una battuta. Ah, no. E quindi cominciamo da lì, il famoso problema della carta che manca, delle scuole a pezzi, della carta igienica, io l'ho vissuto come genitore che dovevamo portare a scuola il sapone per i bambini, tutte queste cose qua, cioè chi vive nella scuola, chi proprio ci va tutte le mattine, è una situazione penosa e allora spiace vedere così persone che non hanno la minima competenza parlare senza mai un po' di rispetto. Daniele, d'accordo, però senta, qui il sistema delle compresenze, cioè adesso per chi non è detto ai lavori è un po' difficile immaginare come possano avere ragione entrambi, il problema è che bisognerebbe spiegare, si perderebbe molto tempo, che il modello dell'insegnante unico secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico, settimanale 24, 27, sino ai 30 ore, nei limiti delle risorse, l'organico assegnato, eccetera, eccetera, eccetera, e che conserva anche il modello delle 40 ore che corrisponde al tempo pieno, bisognerebbe spiegare come equalmente la modulazione precedente, in base a cui c'era la moltiplicazione di cattedre, è fatta col pieno assenso del sindacato. I sindacati sono stati meravigliosamente abili nel mettersi d'accordo sempre con le gerarchie centrali e territoriali della pubblica istruzione, per ottenere l'interpretazione delle norme e la moltiplicazione delle carte. Il sindacato farà anche il suo mestiere, io non dubito di questo, ma il problema è che in mano agli addetti ai lavori la scuola è diventata quella che è in Italia, in mano agli addetti ai lavori, o meglio ai rappresentanti degli addetti ai lavori. Questo perché ci ricordiamo che poi se gli insegnanti sono mal distribuiti dipende dal fatto che in questi anni si è tentato di disarticolare questa modalità, naturalmente ottenendo il fatto che l'intera gerarchia è per traverso rispetto a chi ha guidato questo processo. Direte sono a favore della Gelmini? No, ma io quando mi sono reso conto di come funzionava l'interpretazione prevalente per la quale poi si costruivano le cattedre, ho capito che il meccanismo funziona poco perché è prioritariamente assegnato e interpretato anche nelle norme esattamente alla proliferazione delle cattedre, e questo non mi sembra una pianificazione della produzione, perché di questo dovrebbe trattarsi, della produzione di sapere e di formazione, che mi sembra accettabile. Quindi l'eccesso di competenza nelle mani di corporazione per me è più grave persino dell'ignoranza pro tempore. Un'altra opinione provocatoria, informazioni sulla circolazione stradale. La versione di Oscar. Allora, cominciamo con quest'ultima parte con Attilio Oliva, presidente della commissione educativa industriale del PESOLOX, che proprio l'altro ieri sul Corriere della Sera si occupa da molti anni e bene, secondo me, di formazione di scuola. Attilio Oliva interveniva con un articolo: i precari del sistema dei professori mai valutati. Come si comporterebbe nella ricetta Oliva, in cosa consisterebbe rispetto a quella attuale sui precari? Se mi consente due osservazioni prima di dire le proposte. a contraddire qualche affermazione importante che è stata fatta dai relatori precedenti. Primo, il rapporto degli investimenti nell'istruzione sul PIL ha molto poco significato. Quel che conta è quanti soldi si spendono per studente, e l'Italia per studente spende il 20% in più della media dei paesi europei, quindi non c'è un problema di soldi. Avete sentito, ascoltatori, 20%, lo sottolineo, in più rispetto alla media europea. Come diceva bene qualcuno, il problema non è di ridurre questi soldi, anch'io sono totalmente contrario, anche se spendiamo più degli altri, è giusto che sia così perché abbiamo un deficit culturale del paese rispetto agli altri, storico, che dobbiamo recuperare. Quindi, fermo restando che i soldi devono restare gli stessi e non debbano essere tagliati, il problema è come riallocarli. Oggi sono allocati su un numero di stipendi, di posti inverosimile rispetto all'Europa, lei l'ha già detto, non mi ripeto. Oltretutto, oltre a questo numero di insegnanti, c'è un numero abnorme di precari in attesa, e quindi il problema è gigante e l'Italia lo deve affrontare una volta per tutte. Perché? Perché la qualità del nostro insegnamento non è buona, e lo dimostrano tutti i risultati anche dell'OCSE di questi giorni, tutti i test internazionali, tutti i confronti. Perché la qualità non è buona? Probabilmente perché la selezione e la preparazione iniziale e in itinere degli insegnanti non è adeguata per migliorare la loro professionalità. Quindi non è un problema, non è una colpa degli insegnanti buoni o cattivi, è che per qualunque mestiere, che si faccia l'avvocato, il medico, qualunque cosa, c'è una preparazione seria, dei concorsi seri, una selezione iniziale seria, che nel mondo della scuola non esiste. Cosa esiste nel mondo della scuola? Esiste invece 30 leggi di sanatorie negli ultimi 40 anni di persone che hanno preso una laurea e hanno cominciato a fare supplenze, e sono i famosi precari, persone, insegnanti buttati sul campo come in trincea, senza nessun aiuto, senza nessuna specializzazione iniziale, che devono imparare da soli un mestiere che diventa sempre più difficile. Allora, il problema non è discutere se i precari hanno torto o ragione, il problema è il meccanismo di fondo perverso, questo della famosa graduatoria nazionale a scorrimento, che è la graduatoria dei supplenti che solo per anzianità aumentano il loro titolo per entrare in ruolo, e quindi senza nessun criterio di selezione qualitativa, ma solo per anzianità, e quindi alla fine si arriva ad avere una moltitudine di insegnanti dove qualcuno è bravissimo, qualcuno è medio, qualcuno no, senza che nessuno si sia preoccupato di selezionare seriamente le professionalità per un mestiere che è sempre più difficile e a cui si chiede sempre di più. Allora, il problema vero è come bloccare e superare definitivamente questo infernale meccanismo della graduatoria che crea precari e che poi li fa diventare insegnanti solo per anzianità. Allora, questa cosa è umiliante per gli insegnanti. Si può pensare di tenere 200 o 300 mila persone, 10, 15, a volte 20 anni sulla corda senza sapere se avranno un mestiere certo o no, mentre lo fanno. È una cosa umiliante che li frustra, li indebolisce, è un modo di trattare le persone inaccettabile, che nuoce poi anche agli studenti, perché avere poi degli insegnanti che arrivano ad insegnare definitivamente in ruolo, come ha detto qualcuno, uso un'espressione pesante, sono un precario incazzato a tempo pieno, allora non è ideale per gli studenti avere degli insegnanti incazzati a tempo pieno, non so se vi spiego. No, si è spiegato molto bene. Vincenzo Brancatisano, visto che parliamo da un'ora tra un po' di quello che lei, insegnando per anni, ha visto molto bene, ha vissuto molto bene e ha descritto, se per un secondo le fosse attribuito per bacchetta magica il potere non solo di essere ministro per un giorno, perché non potrebbe cambiare nulla, ma in un giorno concentrare il potere davvero di cambiare e dare una soluzione ipotetica a questo tema, precari da una parte, ma anche merito, che poi chi è in ruolo non viene più rimesso in discussione, il che non significa che non sia proprio il merito e la passione di molti che poi sono in ruolo da molti anni, cosa farebbe in realtà? Guardi Giannino, io vorrei avere in premessa, con molto rispetto dico, vorrei avere in premessa una bacchetta magica perché finalmente si dia la parola a chi di scuola davvero, a chi la scuola davvero la conosce, compresi i sindacati. E io non voglio parlare del mio libro, Una vita da supplente, perché non ho più il tempo, che descrive non l'Italia, la scuola, perché è il frutto di un'inchiesta condotta negli ultimi 5 anni, ma il frutto... denuncia la discriminazione vergognosa tra docenti di ruolo e docenti precari. Utilizzo questi 2 minuti per sottolineare alcune inesattezze gravi che sono state dette durante questa trasmissione, anche, e che mi dispiace che anche il sindacalista non abbia controbattuto neanche una di queste inesattezze. Con molto rispetto lo dico, non sono attribuibili a lei, perché alcune cose sono esatte le condivido, altre assolutamente no, è falso, sono tutti il dibattito pubblico di questi giorni. Innanzitutto si è detto che gli studenti sono in contrazione, falso, gli studenti sono in costante aumento anche quest'anno. 2, sostituire altri 200.000 precari, sommare altri 200.000 a quelli che già ci sono, diceva Gelmini, ma questi 200.000 che non sono 200.000 ma sono 132.800 stanno già lavorando. Quindi non si tratta di spendere più soldi, ma si tratta di dare una dignità a chi da 22 anni come me sta lavorando. Quindi è un altro dato falso. La bassa qualità, bene, ci sono molti politici, amministratori locali che da anni tengono in ostaggio delle cattedre e quindi questi si sommano, anche i sindacalisti che si sommano ai docenti. Non è vero che sia irrilevante il dato sugli insegnanti di sostegno, sono... Anche quest'anno c'è stata una grande infornata di insegnanti di sostegno, quasi tutti o molti di loro passeranno sulla materia comune perché è un escamotage, dopo 5 anni questi si trasferiscono sulla materia comune lasciando gli insegnanti, i ragazzi disabili con un palmo di naso. Il governo Prodi ha iniziato, il governo Gelmini ha continuato in questo buonismo, sono stati assunti soprattutto loro questo in quest'anno. Dice lei non c'è domanda, come non c'è domanda di insegnanti? E allora che cosa sono? Li vedo solo io, li vedono solo i docenti, le convocazioni di quest'anno, centinaia di migliaia di persone vengono assunte senza soluzione di continuità da tanti anni. Il 97% della spesa scolastica va in stipendi, scusi, ma in che cosa dovrebbe andare questi investimenti se l'edilizia è a carico degli enti locali, le strutture e gli arredi e i laboratori sono a carico degli enti locali, rimane il 3%, bene, ma quanti miliardi sono? Molti. Allora non confondiamo le idee con le illusioni statistiche e percentualistiche. Brancatisano, la interrompo perché mi dispiace, non ci siamo. Lei non potrà spiegare a nessuno, statistiche alla mano, non c'è una contrazione sul totale della popolazione italiana in atto e in prospettiva molto seria delle fasce giovanili. Non potrà dirlo, potrà dirmi che sono falso, ma mente lei. E questo mi dispiace, mente lei. Potrà dire finché vuole che il 97% è del tutto proporzionato e che il 3% sono comunque miliardi e può andare in qualità dell'offerta informativa. Nelle 2 università americane in cui io ho studiato dopo la laurea in Italia, in una per il totale delle libere retribuzioni che sul mercato loro davano, è un sistema completamente diverso, ma significa che pagavano molto bene i loro professori, perché stavamo a Chicago. Allora, in una il totale delle retribuzioni per le tenure e per tutto il personale, compreso quello amministrativo, era il 48% di ciò che si spendeva ogni anno, non il 97%, e il resto era in laboratori, tecnologia, era in esterni rispetto alla formazione a contratto, che facevano cose di trimestre in trimestre valutati dai professori e dagli insegnanti. Allora io penso che tra il 3% e il 52%, certo, un punto eccelsa della formazione mondiale, ci sia di mezzo la qualità, cioè la qualità per cui i figli dei poveracci in Italia comunque imparano che bisogna continuare ad andare a studiare all'estero. E sa perché? Perché all'estero queste cose, non tutto l'estero, non solo l'estero mercatista, eccetera, eccetera, però chi ha fame trova una migliore soddisfazione nel proprio bisogno di formazione. Lo so, ci sono 2 maniere diverse di vederla. Io di solito, quando mi dicono che mentono sui dati, tendo a diventare una belva. Aspetterò la sua dimostrazione che il totale della popolazione italiana nelle fasce giovanili è in espansione, e in quel caso ne prenderò atto, ma credo di poter dire a chi ci ascolta che non è così. Capisco che c'è un problema, perché io il libro l'ho visto, e la questione, che poi comunque io la ringrazio per tutto quello che ha detto, è che il merito di chi sta fuori e chi sta dentro, lei per primo dice che bisogna trovare il modo di saperlo misurare e valutare. Io penso che questo sia molto positivo e mi scuso con tutti coloro in ascolto se anche oggi è sembrato che abbia una visione indifferente ai problemi dell'umanità, perché non è così. Voglio semplicemente una umanità in cui il merito sia il punto di fondo, non per i poveracci che col merito vengono giudicati e chi sta nel pubblico che il merito se lo dimenticano perché paga il contribuente, cioè Pantalone, cioè io. Appuntamento a questo punto. A domani mattina lì nel giornale radio. Radio 24. La passione si sente.